Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. La puntata di questa settimana ruota intorno ad una domanda, ma anche fortunatamente alla risposta. Che fine fanno? Di cosa parliamo? Parliamo degli abiti, dei vestiti che dismettiamo e magari per abitudine o per opportunità portiamo e mettiamo nei cassonetti gialli della raccolta indumenti, quelli gestiti dalla Caritas, perché di questi noi parliamo, non parliamo del percorso che fanno altre raccolte di indumenti, che pure sono legittime. Sono però comunque quelli più famosi, anche quelli più diffusi. Cosa succede allora? Che fine fanno? Tutti i vestiti che noi portiamo alla raccolta nel cassonetto, oppure lì dove succede in alcuni territori nella nostra regione, sono fatte quasi porta a porta con raccolte all'interno delle parrocchie. È un percorso che parte da una donazione gratuita, ovviamente noi mettiamo i vestiti che non utilizziamo più e lungo il percorso, lungo la strada, si alimentano delle dinamiche spesso sconosciute e noi cerchiamo di svelarne alcune che generano diversi valori. Mi aiuta in questo il sito che è stato appositamente istituito, che è chefinefanno.it, e lì potete trovare tutto ciò che vi sto dicendo a voce. Ci sono diverse cooperative che si occupano appunto di raccogliere questo tipo di materiali. C'è innanzitutto una legge dello Stato italiano, normativa ambientale, che prevede che anche gli indumenti usati rientrino nella categoria dei rifiuti. Vestiti, cappelli, borse, scarpe, biancheria, coperte, tendaggi. La raccolta di questo tipo di materiale coinvolge gli enti pubblici, quindi i comuni che decidono a chi affidare lo smaltimento dei rifiuti, le società che gestiscono i servizi di igiene ambientale per conto dei comuni. Citiamo per il padovano Etra, Acegas APS, Veritas Padova 3, Era, insomma, e poi nel resto del territorio conoscete nel vostro comune qual è la società che si occupa appunto di raccogliere e smaltire. E poi ci sono le cooperative sociali che gestiscono i servizi di raccolta e recupero dei rifiuti tramite accordi con le società oppure direttamente con i comuni. Attualmente nel padovano ci sono situazioni differenti tra loro per le diverse modalità in cui queste realtà che ho citato vengono coinvolte. Caritas Padova è partner di un gruppo di cooperative che attraverso degli accordi appunto con le aziende o direttamente con i comuni gestiscono la raccolta indumenti. Queste cooperative sociali destinano una parte dei proventi che derivano dalla raccolta per realizzare alcuni progetti della Caritas Padova. Il Grillo, Città Solare, Monterico, Bartolomeo Ferracina e Insieme sono queste cinque cooperative sociali che hanno appunto l'accordo con Caritas e con le aziende oppure direttamente con i comuni. Cosa succede una volta che noi prendiamo il nostro sacchetto e mettiamo il tutto all'interno dei cassonetti gialli? Gli indumenti usati appunto vengono conferiti nei cassonetti. Questo servizio sostiene i progetti di Caritas Padova, può esserci questa scritta all'esterno appunto del cassonetto. Gli indumenti poi vengono ovviamente da lì prelevati e portati nei centri di stoccaggio delle cooperative coinvolte. E poi vengono venduti a società che operano nel settore, selezionati in appositi impianti autorizzati. Quindi che cosa succede nel nostro abito, che magari in condizioni buone o ancora più che accettabili? Il 68% degli indumenti viene destinato al riutilizzo, visto che la maggior parte poi sono effettivamente riutilizzabili. Il 25% è sottoposto al riciclaggio delle materie prime, cioè non è considerato adatto per essere riutilizzato come capo di vestiario o come indumento e quindi viene di fatto smantellato. Il 7% viene invece completamente smaltito perché non più utilizzabile e nemmeno riciclabile. Questo è diciamo il percorso generale che fanno i vestiti buttati nei cassonetti. e questi cassonetti sono presenti, non dico in tutti, ma in buona parte dei comuni del territorio, oppure vi potete informare. Sono molte le tonnellate, appunto, degli abiti che vengono raccolti quotidianamente, poi sommando il totale dell'anno. Dicevo all'inizio, questo tipo di raccolte genera anche dei valori che non sono solo e semplicemente quelli economici. C'è la solidarietà, proprio perché una parte dei proventi è destinata alla Caritas diocesana, che utilizza questi soldi per finanziare il Fondo Straordinario di Solidarietà, un progetto che, come sapete, da molti anni sostiene opportunità di lavoro per chi è disoccupato o senza ammortizzatori sociali. Poi ovviamente c'è la questione ambientale. Si stima, è un dato nazionale del Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati, che ciascuno di noi consumi 14 kg all'anno di abiti e accessori. 14 kg all'anno a testa. La raccolta differenziata di questi materiali in Italia arriva in media a 1,5 kg a testa all'anno, ed è inferiore però alla media dell'Unione Europea. Secondo uno studio dell'Università di Copenaghen, riciclando 1 chilo di abiti usati si riduce l'emissione di anidride carbonica di 3,6 kg, si consumano 6.000 litri di acqua in meno, si evita l'utilizzo di 3 etti di fertilizzanti e di 2 etti di pesticidi. Recuperare in ogni caso, anche forse più per i vestiti, è dunque una pratica virtuosa per il nostro ambiente. E poi il terzo valore che viene generato è quello del lavoro. Raccogliere appunto gli abiti usati è un'opportunità per persone che hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro, e le cooperative sociali che citavo prima, impegnate nella raccolta, curano al loro interno proprio l'inserimento lavorativo di persone in situazione di fragilità sociale. Donare gli indumenti allora contribuisce ad alimentare un sistema che dà il pane a centinaia di persone che appunto si occupano poi di raccogliere e smaltire tutto il materiale. Ricordo il sito chefinefanno.it, lì all'interno trovate poi tutti i contatti anche relativi non solo alla Caritas di Padova, ma anche alle 5 cooperative che effettivamente materialmente si occupano di effettuare questo tipo di raccolta, di smaltimento, di riutilizzo, di rimessa in circolo del ricavato per la raccolta degli indumenti in tutto il nostro territorio. Chefinefanno.it, lì trovate tutti i dettagli. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.